mi stanco ancora a stare sotto il sole, a prenderti la mano, a dirti che ti amo. Passeranno gli anni, cambierò colore, ma io son sicuro che saremo ancora noi due. Come l'asino ed il bue, come il bianco e il nero, come una bicicletta che va sopra la collina, in salita a fatica e poi giù come a plana, tra mille girasoli, tra tutti quei colori, verso una piccola abbazia, dove ogni giorno che vivrò ti sposerò, ti sposerò. Giorno dopo giorno, ora dopo ora, siamo diventati forti come una verità. Ricominciamo, andiamo lontano, come sconosciuti, soli in una grande città. Ciao, piacere, come stai? Di che segno sei? Come ti chiami? Andiamo via lungo l'autostrada, con lo zaino in autostop, arrivare a Capo Nord, tra tutti quei gabbiani, e prenderti le mani, noi due abbracciati in un iglu, dove ogni inverno che vivrò ti scalderò. Ti scalderò. Ti scalderò.